sono quei musetti lunghi? Scende un velo di malinconia sui tuoi occhi come una malia, ma se guarderesti in faccia al futuro c'è un miracolo che accade, sai. Se a sinistra tu direi che vai, puoi commettere tali e tanti guai, mentre il cielo più sereno è giocondo e altrove e attendi bimbi come noi. Voglia di piscione lo canteranno in cuore i bambini del mondo, trullala piscione, non ci mettiamo il solco e lui insieme fecondo, pallone, pilone, simpaticissimo, sbarazzinissimo amicone. Siamo piccoli ma in fondo al cuore c'è l'istinto come di elettor che ci guida ad una nuova speranza. Nella mia televisione adesso è mattino, li guardo fare colazione nel mulino. Dice caro, dice fai colazione, dice no, dice aspetto l'ispirazione poi mangio un biscottino, qualcosa di sano di primo mattino. Dice dopo colazione mi sento un leone, pronto per entrare in competizione. Il mio mulino non è proprio un mulino, sono due camere al Tiburtino. E al mattino io mi sveglio affranto, altro che biscotti mi ci vuole un trapianto. Apro la finestra, senti che casino, sirene, grida, squilli di telefonino. Le 9 del mattino sono così stanco e questo non succede nel mulino bianco. Ma questa è un'aggressione immotivata ad un prodotto dolciario sostanzialmente innocuo. Eh sì, perché è bianco e io non sono bianco, tu non sei bianco, qua nessuno è bianco e sono stanco. Che più buono sei più bianco, sono stanco, stanco del mulino bianco. Se il mulino è bianco allora è meglio giallo, nero, verde, rosa, marrone o amaranto. Te lo dico in rima, te lo dico in canto, dico bianco, bianco al mulino bianco. Bianco, bianco, bianco. Del mulino bianco, se fumi marijuana ti porta in prigione. La religione del mulino bianco usa le camille per la prima comunione. La società del mulino bianco ti provoca diabete e poi ti manda in pensione. Le perversioni del mulino bianco non riguardano soltanto la tua digestione. I tarallucci del mulino bianco, le tenerezze del mulino bianco, i dolci fiocchi del mulino bianco, le droghe pesanti del mulino bianco, le crostate cioccolato del mulino bianco. Stop, stop, stop, stop al pane con le fette biscottate del mulino bianco. Stop, stop, stop, stop al mulino bianco, bianco, bianco. Cibo virtuale, sapore antico ma iperreale, creare l'esigenza del gran cereale, sottile differenza fra naturale e innaturale, fra naturale e artificiale, sotto i denti non è niente male, quello che non torna è la filosofia, ma sotto quella patina di simpatia, i tartanelli del mulino bianco, l'alito pesante del mulino bianco. assuefazione il mulino bianco. Bianco, bianco, bianco. Sudafrica va più uno dai bianco.